c'è un'insegna, su una vetrina a due luci dalle parti di Piazza Firenze, qui a due passi dalla radio, che per un po', ogni volta che ci sono passato davanti in auto con i mezzi, mi ha inquietato parecchio. E capirete, recitava e recita alla lettera Neri per sempre, e sembrandomi per vari motivi poco probabile che quella fosse la sede di uno dei molti partiti fascisticamente irriducibili che dall'intesa con le liste del centrodestra hanno tratto nuova linfa e visibilità, non riuscivo proprio a capire quali prodotti o servizi si potessero offrire al pubblico sotto una simile denominazione. Anche a prescindere dalle camicie e dai gagliardetti dei fascisti, e trascurando per economia del discorso tutte le implicazioni razziali, il nero di solito non gode di buona stampa. Sarà perché rappresenta la modalità con cui noi ci raffiguriamo l'assenza di luce. E il buio, come noto, nell'esperienza primordiale della specie è connesso con forti sensazioni di pericolo. O perché molte chiese ne hanno fatto il colore del lutto e della morte, ma espressioni del tipo di stamattina vedo tutto nero di solito non riflettono un punto di vista particolarmente positivo sulle cose del mondo, e anche quando ci ripromettiamo per un motivo o per l'altro di far nero qualcuno, non ci sentiamo ispirati da un'eccessiva benevolenza universale. Quell'espressione, l'espressione sulla insegna, probabilmente era stata escogitata per attirare clienti, visto che a questo dopo tutto servono le insegne, ma il fatto che qualcuno si fosse messo in affari facendo conto su una clientela interessata in qualche modo all'oscurità eterna, mi sembrava, non saprei come dirvi, mi sembrava molto strano. Alla fine naturalmente ho dovuto controllare. Sono sceso dall'autobus, ho raggiunto il negozio e tutto mi è stato paradossalmente chiaro. In effetti quello non era un negozio, era un centro raggi, un solarium, come altro si dice, uno di quei posti in cui ci si va a sottoporre a vari trattamenti cosmetici con particolare riguardo all'abbronzatura artificiale. È una pratica, quella della lampada abbronzante, sulla cui utilità e convenienza girano pareri piuttosto diversi, ma che ormai si è imposta con una certa perentorietà sul mercato dell'estetica corporale, per cui è normale che i centri ad essa dedicati tendano a moltiplicarsi e che la volontà degli esergenti di distinguere l'uno dall'altro porti offerte semantiche anche bizzarre come quella che mi aveva tanto incuriosito. Voleva semplicemente dire che le abbronzature che si possono acquisire in quel posto sono garantite di lunga durata. Tutto in ordine, dunque. Tutto in ordine, forse, salvo una certa inattesa radicalità della metafora, che a indicare la sfumatura di colore che assume la pelle esposta ai raggi del sole o ai loro equivalenti tecnologici sul lettino o in cabina, era passata dal bronzeo originale, che forse è veramente un termine un po' troppo letterario per resistere in questa epoca di analfabetismo diffuso, all'oscuro, e dall'oscuro aveva virato direttamente al nero. È vero che a me non sembra che l'aggettivo sia normalmente usato in quel senso, anche perché la cute abbronzata, a essere proprio precisi, nera nera non è, si presenta piuttosto in tutte le sfumature del marrone, dal biondo dorato al cuoio scuro, passando nelle fasi preliminari per la gamma del rosso, e quando ero giovane andava di moda una canzone nella quale l'artista si rivolgeva all'amata con un sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera come il carbon, ma ce n'era anche un'altra per cui da quando tu prendi il solleone, sei diventato rossa, sei come un peperone, e più in generale si concordava sul fatto che abbronzate tutte chiazze per le rossa un po' paonazze fossero le ragazze che prendono il sole. Gloria di quell'una, no, che come ricorderete per scelta esclusiva o gusto della contraddizione prendeva la luna, che aveva quindi la pelle chiarissima. E il bello delle metafore però è che ciascuno può crearne continuamente di nuove, poi si vede, i colori sbiadiscono, i concetti si usurano, nascono continuamente nuovi modi di dire, e se oggi sul piano simbolico il nero è legato alle lamentazioni sui morti e alle ambizioni politiche dei camerati dell'onorevole Mussolini, della onorevole Mussolini, nulla impedisce che possa in un futuro più o meno immediato associarsi alle idee di sole, vacanze, spensieratezza e dolce far niente. Basta solo stare attenti alle scottature.